Ho avuto sogni barricati nel cassetto, mentre gli urlavo, uscite che vi aspetto. Tu dal rispetto ai sogni, ma rispetta ciò che sei, e i sogni ti rispetteranno per quello che sei. La scelta è nostra ed è tutto ciò che abbiamo. Identifica chi siamo, le amicizie, le persone che amiamo. E col dolore ci vestiamo di saggezza, guardarsi dentro per vedere la vera bellezza. Spogliandoci da incubi e da delusioni, rivestiamoci di ciò che ci rende migliori. Perché presto o tardi rivedremo ciò che siamo, troveremo le risposte e nuovi traguardi. Ambizioni che da tempo non guardavamo, facendo passi avanti, passi da giganti. In un mondo da scoprire ricco d'avventure, perché quello che c'è fuori resta fuori con le paure. E quando rimarrai sola tra le lenzuola una volta ancora, per paura di sbagliare e soffrire ancora, e restare sola, spogliati delle paure, delle incertezze. Andrea, Andrea, indossa quel sorriso che spoglia debolezze. Andrea, Andrea, chiusi nel cassetto, hanno buttato via la chiave, sono lì che aspetto. Potrei scassinarlo, ma provo rispetto. I sogni vanno corteggiati, mi è stato detto. Ma è sola, quel ricordo mi divora. Cerco chi mi farà soffrire ancora. Ma se trovo la pace, ritrovo me stessa. Quello che mi piace fare è quello che c'ho in testa. Voglio amore come forma di contagio, epidemia di abbracci, essere a mio agio. Mi spoglio delle debolezze, vestendomi d'orgoglio e di poche certezze. Una delle quali è che io valgo più di tutti quelli che sono al traguardo. Solare come pochi, determinata come mai. Lascio le paure con i dai che ce la fai. E quando rimarrai sola tra le lenzuola una volta ancora, per paura di sbagliare e soffrire ancora, e restare sola, spogliati delle paure e delle incertezze. Andrea, Andrea, sorriso che spoglia debolezze. Andrea, Andrea.